Saturday Nights, Alright for Fight. E il venerdì? E il venerdì invece è alright per ascoltare l'Early Bird Special. La ricetta dell'Early Bird Special è la grande musica di Rock FM, il vecchio Chuck Bird che quando in buzza buona vi racconta le sue storie di rock and roll. Come quando Robert Fripp, chitarrista dei King Crimson, raggiunse nel maggio 1977 David Bowie a Berlino per registrare alcune tracce dell'album Heroes. Ma ve lo racconterò dopo i favolosi Cheap Trick, A Flame. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing out my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm you Cheap Trick all'Early Bird Special, ma non è di loro che vi voglio parlare, ma di David Bowie e Robert Fripp. I due si conoscevano già dalla fine degli anni 60, ma fu solo nel 1977 che Robert e David decisero di fare qualcosa assieme. E fecero grandi cose. Più di ogni altra cosa è il suono inimitabile della chitarra di Fripp che differenzia Heroes da tutti gli altri album di David Bowie. E pensare che Fripp fece tutto in circa 6 ore, pensateci. Erano le 11 di sera e Fripp era appena sceso dall'aereo da New York quando Brian Eno, che era stato scelto come produttore dell'album, gli chiese se volesse già suonare qualche cosa. Eno gli fece sentire al sintetizzatore tutto quello che avevano scritto fino a quel momento, mentre Bowie gli chiedeva di suonare con totale abbandono, in un modo che non avrebbe mai preso in considerazione per i dischi dei King Crimson. Gli disse di fare qualcosa simile al blues, di suonare come Albert King, e Robert Fripp cominciò a suonare senza neppure sapere la sequenza degli accordi. Il giorno dopo, Robert Fripp aveva finito, fatto i bagagli ed era tornato a casa. Beh, Heroes ricevette un'accoglienza da parte dei fan e degli altri artisti della sua generazione senza pari. Poco prima della sua morte, John Lennon ammise che aveva intrapreso Double Fantasy con l'ambizione di fare una cosa bella come Heroes. Pochi album negli annali del rock possono vantare una dichiarazione di tale portata. Heroes, ed eroicamente siamo giunti al termine di questo Early Bird Special di venerdì. Ah, ragazzi, bisogna prepararsi per il super weekend. È prestissimo, ma sono certo che già fra di voi c'è chi sta pianificando per questo favoloso venerdì sera. Per il vecchio Chuck Bird è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi aspetto lunedì mattina dalle 6 alle 7. A voi pane, burro e rock and roll con DJ Ariel e Freak Anthony. Da Chuck Bird è tutto. Aloha!